Oggi si parla di te in tutto il mondo e la gente ne sorride a festa. Oggi si parla soltanto di te nella mia testa. Minimizzo, tanto non mi senti, sempre secondo, il primo dei perdenti. Ho perso idee, fantasie, autocontrollo, anche il tuo ultimo boh. C'eri tu in mezzo a questo inverno. A dirmi meglio un minuto, ma felice che triste in eterno. Però per ora, per caso, sfortuna, adesso troppa paura. Sei sempre stato più forte tu. Mi chiedo come potrei esserlo io di più. La vita segue, auguri a chi combatte. Io ora vado una volta per tutte. Solo un giorno vivi tu per me, per oggi, perché io non torno. Dicevi da grande lo stesso problema, ti sembrerà tanto ridicolo, ma il giorno in cui sei volato via è proprio come immaginavo da piccolo. C'eri tu in mezzo a questo inverno. A dirmi meglio un minuto, ma felice che triste in eterno. Per caso sfortuna, adesso troppa paura. Sei sempre stato più forte tu. Mi chiedo come potrei esserlo io di più. Felicità, ridere forte all'improvviso, non la voglio questa libertà, non sia fatta la tua volontà. C'eri tu in mezzo a questo inverno, a dirmi meglio un minuto ma di pace che guerra in eterno. Però per ora, per caso, sfortuna, adesso troppa paura. Sei sempre stato più forte tu. Probabilmente dovrò esserlo io di più.